Il rispetto dell'onore. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica, il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: le azioni lecite sono chiaramente definite e così pure le azioni illecite. Tra le une e le altre ci sono azioni equivoche, delle quali la maggioranza degli uomini non sa se sia bene o se sia male compierle. Chi sta alla larga dalle azioni equivoche protegge la sua religione e il suo onore, mentre chi bazzica nell'equivoco cade o prima o poi nell'illecito, come il pastore che, facendo pascolare il gregge sul confine di un terreno con divieto d'accesso, è sempre in pericolo di violare il divieto. Ogni sovrano determina nel suo regno delle aree con divieto di accesso, e le aree con divieto di accesso di Allah sono le sue proibizioni. Nel corpo c'è un organo che quando sta bene fa star bene tutto il corpo e che quando sta male fa star male tutto il corpo. Si tratta del cuore. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la reputazione di una persona è segnalata dalla religiosità del suo amico più caro. Perciò fate bene attenzione a chi prendete per amico più caro. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, guardatevi dalle cattive compagnie, poiché esse portano alla rovina. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il compagno buono è come il venditore di profumi e quello cattivo è come il carbonaio. Se stai col venditore di profumi, o lui te ne regala uno, o tu lo compri, oppure il profumo ti rimane addosso per effetto della vicinanza. Se stai col carbonaio, o ti bruci il vestito, oppure, a causa della sua vicinanza, ti rimane addosso il suo cattivo odore. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nella considerazione di Allah, l'uomo più degno di stima è quello timorato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, evitate il sospetto, poiché il sospetto è origine del modo più ingannevole di parlare. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non fate maldicenze gli uni alle spalle degli altri, non odiatevi gli uni gli altri. Il disprezzo del proprio fratello è un sentimento assai riprovevole. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la diffamazione è più grave della fornicazione. Infatti, il fornicatore, quando si pente e chiede perdono ad Allah, ottiene il perdono di Allah. Invece, il diffamatore non viene perdonato da Allah se prima non è stato perdonato dalla vittima della sua diffamazione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, oltraggiare un musulmano è disobbedienza ad Allah e contrastarlo è miscredenza. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi mormora contro suo fratello per un peccato che quello ha commesso non morirà prima di averlo commesso anche lui. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi trova dei difetti in un uomo e li tiene nascosti è come chi salva la vita a una bimba sepolta viva. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, musulmano è colui dalla cui lingua e dalla cui mano si è al sicuro. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, il maldicente non entrerà in paradiso. Chi sa tacere si salverà. Chi presta orecchio alle maldicenze è un maldicente. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, non è dei nostri chi avvelena la mente di una moglie contro suo marito. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la posizione che l'uomo raggiunge con il silenzio è più elevata di quella che si raggiunge con 60 anni di devozioni supererogatorie, ripeto, per l'importanza di questo hadith. La posizione che l'uomo raggiunge con il silenzio è più elevata di quella che raggiunge l'uomo con 60 anni di devozioni supererogatorie. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, tra le cose lodevoli del comportamento islamico di un uomo c'è il suo lasciar perdere quelle cose che non lo riguardano. Ripeto per l'importanza. Tra le cose lodevoli del comportamento islamico di un uomo c'è il suo lasciar perdere quelle cose che non lo riguardano. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, io posso assicurare il paradiso a chi mi assicura di controllare ciò che gli si trova tra le due mascelle e ciò che gli si trova tra le due gambe.